Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La morte di Steve Jobs, fondatore della Apple, l'annuncio sulla home page della società di Cupertino. Io e Tremonti mai andati così d'accordo, dice Berlusconi, ma Bossi ribadisce, difficile arrivare al 2013. Il presidente della Commissione europea Barroso su YouTube, non l'ho creata io la crisi, ma ne sento tutta la responsabilità. Nel pomeriggio a Barlette, funerali delle 5 vittime del crollo, Vendola, molti i controlli in Puglia, ma restano condizioni di disumanità inaccettabili. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. In queste parole la filosofia di vita di Steve Jobs, morto nella notte italiana a 56 anni. A questo dedicheremo tutta la seconda parte di questo GR24, oltre alla puntata di oggi di America 24 in onda alle 13.45. Ed ora la pagina politica, questa mattina l'incontro fra il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro dell'Economia Tremonti e quello delle riforme Bossi. In primo piano la manovra e la nomina del successore di Draghi in Banca Italia. In diretta con noi da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, crisi economica, durata della legislatura, corsa per la guida dell'Istituto di Via Nazionale, faccia a faccia dunque a Montecitorio tra i leader della coalizione di governo ed è stata l'occasione a margine dei vari incontri proprio per intervenire sui principali temi di attualità. Il Presidente del Consiglio ha garantito che si sta lavorando per lo sviluppo, che ci sono delle difficoltà, che nessuno ha però la bacchetta magica come dimostrano gli altri governi europei, ma noi andiamo avanti, termineremo la legislatura, ha garantito Berlusconi. Quanto al nome del futuro governatore di Banca Italia, il Premier ha spiegato, deciderò entro il primo novembre. Più cauto su tutti i temi Umberto Bossi, viste le difficoltà economiche ha fatto capire il leader della Lega, è difficile arrivare al 2013. Sentiamo allora Bossi. Il 2013 mi sembra obiettivamente complicato, è difficile spernare la gente e farti votare. Il capitolo Banca Italia, poi Bossi punta ancora su Grilli, attuale direttore generale del Tesoro. Quanto alle tensioni tra Tremonti e Berlusconi, Bossi ha garantito non sono poi così gravi. È ancora in corso intanto qui alla Camera il vertice di maggioranza sugli spinosi tagli ai ministeri previsti dalla manovra. E da Roma è tutto. Anche molta giustizia nelle parole di Berlusconi nel giorno della presentazione degli emendamenti del PDL al disegno di legge sulle intercettazioni. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, appunto, continua l'esame qui alla Camera del disegno di legge sulle intercettazioni dopo le dimissioni del relatore Giulia Bongiorno. Il vice capogruppo PDL Massimo Corsaro non esclude il ricorso alla fiducia e qui in Transatlantico ha parlato anche il Premier Silvio Berlusconi. Dobbiamo andare avanti sulle riforme, ora c'è quella sulle intercettazioni, poi faremo la giustizia, il fisco e lo Stato. E Berlusconi si è lamentato anche dei magistrati che ha definito eversivi. Sentiamo il Premier. La giustizia civile con i tempi inenarrabili e poi la giustizia penale in cui ci sono addirittura quello che si vede in questi giorni, delle schegge impazzite che puntano all'eversione, tutto quello che vedrete è successo per esempio da quando sono finite le vacanze della giustizia, pensate solo quello che hanno fatto a me, hanno tolto tutti i testimoni della difesa, pensate a quello che è successo a Napoli, pensate al nostro deputato Papa che rimane ancora in galera. E Berlusconi scherza anche sul possibile nuovo nome del PDL, un nuovo nome che è in agenda, ma Berlusconi sembra che abbia detto ai suoi il nome che avrebbe maggiore successo è Forza Gnocca. Sulle intercettazioni arriva anche il beneplacito di Umberto Bossi, per il leader della Lega il disegno di legge serve a far diventare l'Italia un paese normale, passerà anche senza la fiducia, le intercettazioni per Bossi vengono usate anche indipendentemente dal processo. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito e noi andiamo subito a collegarci con la nostra Adriana Fracchia perché poco fa è stato annunciato il Nobel per la letteratura. Adriana, chi è? Sì, si tratta di Thomas Tranströmer, poeta, psicologo e traduttore svedese che ha occupato una posizione centrale nella lettura svedese fin dagli anni 50, è nato nel 1931, la motivazione ancora non è a disposizione sul sito del Nobel, arriverà tra pochissimi istanti e noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Anche questa volta Adriana niente per Bob Dylan. Niente per Bob Dylan, è andata male, anche per Murakami e Adonis che erano tra i favoritissimi. Grazie ad Adriana Fracchia. vecchia. E torniamo invece a parlare di crisi, perché ne ha parlato questa mattina il presidente della Commissione Europea Barroso su YouTube. I did not create it, but of course I feel responsible. Non l'ho creata io questa crisi, ma ne sento la responsabilità. Parla il presidente della Commissione Europea e dice anche che Bruxelles non ha avuto il polso fermo come avrebbe dovuto nell'affrontare il problema dei debiti elevati dei paesi dell'euro. Bisognava fare più in fretta perché gli stati vanno più lenti dei mercati. José Manuel Barroso si sottopone a domande arrivate da ogni angolo del vecchio continente, per lo più economiche, e conferma l'ipotesi di un'azione coordinata per ricapitalizzare le banche europee. Abbiamo proposto agli stati membri un'azione comune per liberare gli istituti dagli asset tossici che hanno in portafoglio. Ieri era stato il commissario agli affari economici Olli Rehn a ventilare la stessa ipotesi. Le sole parole sono bastate a far volare i listini, che si convincono di più ogni ora che passa che una soluzione ci sarà, soprattutto ora che la Germania si è decisa a parlare europeo. Le banche tedesche hanno bisogno di aiuto come le altre e le previsioni di crescita di Berlino per il prossimo anno sono state riviste al ribasso. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sentiamo come vanno questa mattina le borse in diretta. Deborah Rosciani. Le borse consolidano e rafforzano i rialzi già messi a segno ieri. Abbiamo un progresso di Londra dell'1,98%, Parigi più 2,25%, Francoforte più 2%, dove peraltro il titolo Apple questa mattina perdeva intorno al 3%, Milano più 1,69% sul FTSE MIB. Milano è arrivata a guadagnare oltre 2 punti, adesso rallenta un po' il passo. Bene anche l'euro sul dollaro a 1,33,22. Ricordiamo che oggi c'è la riunione a Berlino del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea sotto la presidenza di Jean-Claude Trichet, il suo ultimo direttivo, visto che tra qualche settimana passa la mano a Mario Draghi. Trichet oggi spiegherà le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale in una conferenza stampa alle 14.30, come sempre. La decisione sui tassi, che però dovrebbero essere mantenuti fermi, arriverà tra poco alle 13.45. Oggi a Milano vanno bene i titoli bancari, vanno bene i titoli legati alle materie prime. Il mercato italiano non risente del nuovo taglio di rating operato ieri da Moody's sui principali gruppi italiani legati allo Stato. È stato rivisto il giudizio su Finmeccanica, su Terna, su Eni, su Enel, su Poste Italiane, che non sono quotate, ma anche su Intesa San Paolo e Unicredit. Tutti questi titoli sono però positivi, quindi la situazione appare più tranquilla delle ultime settimane. Piera. Grazie a Deborah Rosciani. Siamo alla cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina in una fabbrica di fuochi d'artificio a Castellammare di Stabia. Al momento non ci sono moltissime informazioni, ma si parla di un ferito. Naturalmente vi terremo aggiornati. E alle 15.30 funerali delle 5 vittime del crollo di lunedì a Barletta. Ieri hanno suscitato molte polemiche le parole del sindaco Nicola Maffei, che aveva invitato a non criminalizzare il lavoro nero. Poco fa le parole anche del presidente della Repubblica Napolitano su questo. Ha detto che a Barletta ci sono state condizioni bestiali. Posizione fortemente condannata quella del sindaco Maffei, che appunto aveva invitato a non criminalizzare il lavoro nero. Posizione fortemente condannata anche dal governatore della Puglia Nichi Vendola. Sentiamolo al microfono di Katia Caramelli. Credo che è difficile immaginare che si possa lottare soltanto a livello locale contro un fenomeno che per tanti versi è stato in qualche maniera, non dico incoraggiato, ma legittimato. I nostri problemi sono l'organizzazione del lavoro nelle campagne, l'organizzazione del lavoro nell'edilizia e l'organizzazione del lavoro nei laboratori, per esempio, del tessile. Noi in Puglia abbiamo sviluppato le attività di prevenzione e di controllo in maniera significativa. Do soltanto un dato: nel 2005 i sopralluoghi effettuati presso le aziende sono stati poco più di 2.000. Nel 2009 sono stati 9.287. Abbiamo complessivamente un dato di diminuzione degli incidenti sul lavoro. Naturalmente poi permangono condizioni talvolta insopportabili di disumanità. Tutto questo deve fare i conti con un clima generale che tende a considerare il lavoro nero non un fenomeno delittuoso, ma quasi un fenomeno naturale, se non si può minimamente giocare con i diritti delle persone. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale.